in primo piano. Giovedì 16 dicembre. Le notizie che trovate più in risalto sui giornali sono la politica e gli scontri di Piazza Roma con le polemiche annesse. Nasce il polo di Fini e Casini per il Corriere, mentre Repubblica nasce il terzo polo, sfida il Premier. Fini Casini, patto anti-Premier per la Stampa, e così via. Mentre il giornale ha un'accusa di Bondi. Bocchino mi ha minacciato, voleva soldi per la moglie. Libero continua nella campagna contro Fini. Fini, va in camera tua, chiedono le dimissioni di Fini. Così se li compra tutti, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Mentre l'Unità ha un'intervista al capo della polizia, Antonio Manganelli. Un bel colpo dell'Unità. Parla con l'Unità. Paese instabile, polizia supplente. Questo è il titolo virgolettato con sullo sfondo una foto degli scontri di piazza di martedì, quando è stato il giorno della fiducia. Allora, io vorrei iniziare da una segnalazione. Oggi, un po' nel colpevole silenzio dell'informazione, entra in vigore una legge, la cosiddetta legge svuota carceri, un po' impropriamente. Una legge che consente a molti detenuti di scontare la pena presso il proprio domicilio o in un luogo pubblico privato di cura, assistenza, accoglienza per chi non ha un domicilio, sempre che la pena residua non superi l'anno, cioè l'ultimo anno di carcere si può scontare da oggi a domicilio. Questo per svuotare un po' le carceri che sono sovraffollate. Beh, intanto trovate sulla prima pagina del Sole 24 Ore un piccolo racconto di Donatella Stasio molto emblematico legato a questa legge. Fateci restare in carcere, la libertà ci toglie il lavoro. Giuseppe, Salim, Anna non ne vogliono sapere di tornare a casa, preferiscono restare in galera. Non è uno scherzo, accade a Bollate. Carcere alla periferia di Milano, immune dal sovraffollamento, celle aperte fino a sera, 1110 detenuti, metà occupati a lavorare dentro o fuori il muro di cinta, metà impegnati nello studio, attività culturali, sportive, giuridiche, musicali. Aggiungo io, è sempre citato come carcere modello, con questa formula anche un po' strana. Ebbene, Giuseppe, Salim, Anna sono tre dei 35 fortunati che, grazie alla legge svuota carceri da oggi in vigore, potrebbero consumare il resto della condanna in detenzione domiciliare a casa. Hanno le carte in regola, meno di 12 mesi da scontare per reati gravi, ma non gravissimi. Sono i reati omicidio, spaccio. Un'abitazione idonea, non sono delinquenti incalliti, eppure dicono non fateci tornare a casa. Qui, in carcere, abbiamo un lavoro ben pagato, siamo indipendenti, aiutiamo la famiglia, misuriamo la nostra capacità di fare e usciamo anche in permesso. Uno fa l'operatore ecologico a 850 euro al mese, un altro tratta l'amianto, guadagna 500 euro, Anna lavora in sartoria. Con la detenzione domiciliare perderanno lavoro, soldi, autonomia e possibilità di uscire se non da evasi. Meglio stare a Bollate. Paradossi da galera di quella che funziona, racconta Donatella Stasio. Mentre sulla prima pagina del Secolo XIX c'è una storia analoga. È il grido d'allarme del sindaco di Genova, Marta Vincenzi. Da oggi in Liguria 120 persone sono libere per la legge svuota carceri, solo che molte di queste sono straniere, quindi non hanno un domicilio e hanno eletto come domicilio delle strutture protette. Strutture che però, dice il sindaco, ora scarseggiano e comune, provincia e regione dovranno trovare in fretta, a loro spese, e dicono non abbiamo i soldi, e dunque questo è un paradosso di questa legge che serve a svuotare le carceri, ma poi vanno il 40% di quelli che escono sono di nazionalità straniera, non hanno un tetto e dunque la regione o comunque le istituzioni li devono ospitare a loro spese. Dopo aver incassato la fiducia per 3 voti, ora Berlusconi, il governo pensa a allargare la maggioranza. 1 mese e mezzo per decidere, questo è il tempo che leggiamo un po' su tutti i giornali, si è dato Berlusconi. Come allargare la maggioranza? Beh, altri nomi dopo la prima piccola frana tra i finiani sarebbero pronti. Sempre a pagina 2 del Corriere della Sera, Berlusconi vorrebbe un po' pescare appunto in quelli sfiduciati, in quelli delusi. Per esempio, tra i più inquieti, scrive Alessandro Trocino, a pagina 2 ci sono Lucio Dubaldo, Tino Iannuzzi, Alfonso Andria, Stefano Graziano. oppure l'elenco dei soggetti sensibili in future libertà. Carmine Patarino, Egidio Di Giglio, Gianfranco Paglia, Luca Bellotti, Francesco Proietti Cosimi, Claudio Barbaro, Giuseppe Consolo. Ovviamente smentiscono, sentiti dal Corriere. Bellotti, per fini sono disposto a buttarmi nel fuoco. Giuseppe Consolo, per me c'è un nome solo, Gianfranco Fini, ora più che mai. Gianfranco Paglia, finiano, medaglia d'oro al valor militare in Somalia, dove ha perso l'uso delle gambe, dice: è più facile che torni a camminare piuttosto che abbandonare Fini. Sta di fatto che potrebbe, secondo le indiscrezioni, i rumors della politica, si potrebbe pescare anche tra gli incerti dell'UDC, per esempio. La Binetti, in un'intervista, credo sull'Unità, oggi dice: beh, insomma, sui temi etici, per esempio, sono molto vicino alle posizioni del Popolo della Libertà. Sta di fatto che andremo a vedere. L'altra notizia politica del giorno, oltre al tentativo di allargare la maggioranza, è un po' la risposta subito pronta di Fini, Casini, i rutelliani, la nascita del Polo della Nazione. Come racconta pagina 4 del Sole 24 Ore, nasce il Polo della Nazione. Questa è la sfida di Fini e Casini da oggi insieme in Parlamento e nel Paese. Tra l'altro il Sole 24 Ore intervista tre protagonisti della politica su questo: Roberto Formigoni, che dice: perché no, l'appello di Berlusconi ai moderati è l'unica linea giusta percorribile, allargare la maggioranza. Rocco Buttiglione dell'UDC, che dice: mai con questo governo, intervistato da Luca Ostellino, questa maggioranza no. Certo, si potrà fare un mercato in cui c'è qualche frattaglia da comprare, ma di sicuro non vi si cucinano piatti particolarmente buoni. Questa è la frase molto dura di Buttiglione. Giuseppe Leoni, invece, della Lega, sapete che Lega e UDC non si vedono certo di buon occhio, ma Giuseppe Leoni, cattolico della Lega, dice: potremmo anche stringere un'amicizia con l'UDC, possono essere amici ma solo per un breve periodo. Io con Casini, per esempio, non ho mai parlato. Ma si vede un po' complicato un allargamento, tanto che Bossi ancora fa sapere dai giornali, con questi numeri, meglio il voto. Mentre Berlusconi, sapete come ha bollato, secondo retroscena di Francesco Bei su Repubblica, la nascita di questo terzo polo: spariranno, sembrano De Mita e Forlani. Questi sono Fini e Casini. Nella definizione, nel retroscena, come li avrebbe definiti Berlusconi. Certo, il clima è davvero ancora di grande tensione. Come si fa a fare un accordo? Sentite, secondo Francesco Bei, cosa dice Massimo Corsaro del Popolo della Libertà, uno dei massimi ostili alla ricucitura con Fini. Fini è uno stronzo e scriva bene, chiede a Francesco Bei. È arrivato qui con 83 deputati di AN, si ritrova con Briguglio e Granata. Complimenti, bel capolavoro. Mentre l'ossessione, secondo Bei, di Berlusconi ormai è questa: non vuole più vedere Fini seduto là, sullo scranno più alto, presidente alla Camera. Le è stata rispolverata anche l'idea di fare uscire dall'aula i deputati del PDL e della Lega ogni volta che toccherà Fini presiedere la seduta. Insomma, Berlusconi, che vorrebbe far dimettere Fini, al suo posto sarebbe già un candidato alternativo, Rocco Buttiglione, quello che sul Sole dice: con questo accordo, con questo governo, accordo mai. Certo, Libero e Il Giornale insistono. Libero: vai a casa, e c'è la foto di Fini, cioè Maurizio Belpietro insiste, bisogna che Fini si dimetta dal ruolo di presidente della Camera. Mentre La Padania mette Bocchino, Granata, Barbareschi, Urso, ora fuori dalle palle. Questo è il titolo. E vedete, è così. Altro che tentativi di accordo, ormai siamo alla resa dei conti. Qualcuno ieri mi informava che il vero, diciamo, clima di tensione inizia ora, dopo incassata la fiducia, ora la vera resa di conti, in questo mese e mezzo che avrebbe detto, si è dato Berlusconi, per capire se si può allargare la maggioranza oppure l'alternativa per Berlusconi deve essere si va alle urne. Davvero ne assisteremo a delle belle o delle brutte, dipende dai punti di vista. Pronte 10 poltrone per allettare i finiani, Francesco Grignetti, a pagina 6 della Stampa, inizia a fare i conti dei posti liberi. al governo, perché si sono dimessi i ministri o viceministri Fignani. Ci sono alcuni posti vacanti, il sottosegretario alla presidenza della protezione civile, il viceministro all'economia Vegas, il viceministro allo sviluppo economico Romani che è diventato ministro, il sottosegretario all'economia Cosentino che si è dimesso e Francesco Grignetti anche con una certa ironia fa notare, ironia, insomma, con una certa, come dire, un tono così per gettare un pochino di dubbi e un po' di malizia, fa notare che il sottosegretario, per esempio, guadagna 48.000 euro in più rispetto all'indennità parlamentare. C'ha l'ufficio adeguato, la macchina con autista, l'assunzione di personale fiduciario, la possibilità di distacco di personale da altre amministrazioni, i voli di Stato, soprattutto se in rappresentanza del ministro. Ed ecco allora che l'inchiesta di Francesco Grignetti va a vedere tutte le posizioni libere e cosa potrebbero allettare le persone che, insomma, per una posizione potrebbero anche decidere di aver votato in un certo modo, per esempio. Italo Bocchino, intervistato da Carmelo Lo Papa su Repubblica, dice: non ho nulla da rimproverarmi. Il premier ora galleggerà, è identificato come il falco, ma dice un po' le solite cose: non esistono falchi, siamo uniti. Non ho nulla da rimproverare a quello che ho fatto. Sta di fatto che anche per il Fatto Quotidiano si insiste, così se li compra tutti, in prima pagina e a pagina 2, ecco la trattativa di Berlusconi, gli sms dell'Utri. C'è anche un sms pubblicato a pagina 2 nell'articolo di Paola Zanca, questo sms Scilipoti, che l'sms sarebbe di un uomo vicino alla segreteria di Domenico Scilipoti, no? Questo deputato che è uscito dall'Italia dei Valori. L'SMS è questo: Scilipoti, col tramite di Marinella Brambilla, che è la segretaria personale di Berlusconi, tratta al palazzo con Dell'Utri per avere più soldi, la ricollocazione e un posto da primario. Le trattative non le fa né Pionati né Verdini, che depistano la stampa, ma Dell'Utri. Questo sarebbe l'ultima novità. Secondo il Fatto Quotidiano, la trattativa per far entrare Scilipoti, per far votare Scilipoti la fiducia, l'avrebbe fatta Dell'Utri. Mentre Sandro Bondi, il ministro della cultura, che è entrato in uno scontro con Fini sulla questione delle sue della calendarizzazione della mozione di sfiducia a lui personale, ora attacca sul giornale: Bocchino mi minacciò per avere fondi. Sandro Bondi, intervistato da Paolo Bracalini, dice: io non ho sistemato nessuno della mia famiglia al ministero, ho già spiegato la questione com'è, e poi non prendo lezioni morali da Bocchino, il quale mi ha più volte chiamato in 2 anni di governo con tono arrogante e minaccioso a lui congeniale per chiedere che il ministero finanziasse soggetti cinematografici prodotti dalla società appartenente alla sua famiglia. Mi ha chiesto finanziamenti anche riguardanti sua moglie e intervenne per alcune nomine. Una volta mi telefonò da New York e giunse a urlarmi al telefono cercando di intimidirmi. Ne rimasi profondamente colpito e scosso. Questa è l'accusa che troviamo a pagina 3 di Sandro Bondi. Sullo sfondo di questo che sono i riposizionamenti, questo mese e mezzo che ci attende della politica, c'è quello che è successo a Roma il giorno proprio della fiducia, che crea moltissime polemiche, crea moltissime tensioni. È ancora l'apertura per alcuni giornali, per esempio il Manifesto, oggi sotto il titolo Fiducia nell'arma, pubblica anche una foto che finora non è stata pubblicata, quella di un carabiniere che in via Astalli a Roma impugna la pistola. Si vede proprio cerchiata nel rosso l'immagine di un carabiniere, scudo, casco e la pistola in mano, fuori dalla fondina. E c'è anche una vignetta molto dura di Vauro. Vauro è una vignetta un po' complicata, rispolvera una vignetta del 77 di Forattini, del 12 maggio 77, il giorno in cui fu uccisa Giorgiana Masi in una manifestazione di piazza. E in questa foto c'era Cossiga travestito da infiltrato. E aggiorna Vauro la vignetta: 14 dicembre 2010 c'è un uomo vestito da Black Bloc ma ha la faccia del ministro dell'interno Maroni. E infatti la polemica sugli infiltrati, ieri io vi avevo detto c'erano queste foto che hanno suscitato un dibattito sui giornali, su internet. C'era per esempio la foto di una persona in giacca beige con una vanga E poi dopo aveva in un'altra foto un manganello e un paio di manette. Allora qualcuno dice: ma come, se è un manganello e un paio di manette è un poliziotto in borghese? Se poi invece ha una vanga e viene fotografato nell'atto di distruggere, che cos'è? È un poliziotto in borghese oppure è un poliziotto che sta provocando tensioni? Tanto che il Partito Democratico lo ha chiesto al governo, ci sono infiltrati, il mistero però pare un grande abbaglio si è già risolto. L'uomo con la pala è un minorenne, figlio di un ex Brigate Rosse. Marco Ludovico sul Sole 24 Ore, a pagina 5, è il figlio di un ex brigatista rosso, è minorenne, compare in alcune foto degli scontri armato di una pala. Clamorosa novità tenuta top secret dagli investigatori, perché trattandosi di un minore le tutele previste non consentono la rivelazione di nome e cognome, ma è certo che il padre del ragazzo, liceale di 16 anni, è un uomo noto alle cronache del terrorismo di estrema sinistra. Lo stesso sedicenne è noto per appartenere agli ambienti della sinistra estrema. E dunque pare risolto questo giallo anche sulla Stampa, anche sul Corriere della Sera, anche su Repubblica. 16 anni, viene dato figlio di un ex autonomo. È stato fermato dunque perché aveva quelle manette e quel manganello, li aveva perché li aveva sottratti al finanziere che era caduto a terra, quel finanziere che ha estratto la pistola, o meglio non è che ha estratto la pistola, anche oggi c'è nuove ricostruzioni, le è caduta la pistola nel momento in cui è stato sommerso una valanga di colpi, calci e anche sprangate, lui racconta oggi in una ricostruzione fatta dal secolo XIX, e quindi è riuscito poi a recuperare la pistola. Manganelli, noi soli a fronteggiare l'emergenza sociale. Claudia Fusani dell'Unità fa un colloquio con il capo della polizia, parla solo all'Unità. Tensioni sociali in forte crescita di tutto il paese, provocate da una grave crisi economica, instabilità del quadro politico, e a noi è richiesto un super lavoro, proprio a noi che abbiamo tra l'altro stipendi sempre più ridotti. 23 persone arrestate, 5 denunciate, 124 ferite tra le forze dell'ordine, questo è il bilancio degli scontri del 14 dicembre, volevano sfondare, sfasciare, abbiamo vissuto momenti di violenza inaudita e gratuita, autentica rabbia, dice il prefetto Manganelli all'Unità. E che poi affronta la parola infiltrati, una parola non ricevibile dal capo della polizia, che conferma c'era semmai personale in borghese lungo il corteo per monitorare la piazza. La foto del finanziere che sta stringendo la pistola è il fotogramma di una lunga drammatica sequenza che abbiamo visto in diretta e con l'audio acceso sui video al plasma qui in ufficio, che rinviavano le immagini dei punti più critici della città. Gli avevano strappato manette, casco, giubbotto, manganello. Lui temeva che potessero prendere l'arma, ecco perché l'ha impugnata per difenderla. E poi dice Manganelli, tutto era già programmato, il problema è la rabbia sociale che c'è in giro, rifiuti, Fiat, aziende che chiudono, tanti focolai di tensione. Ma perché i rifiuti di Napoli devono diventare un problema di polizia, semmai è di pulizia? E poi conclude questa chiacchierata con Claudia Fusani. Tutto questo ci costringe a un super lavoro proprio a noi, a chi è pagato sempre meno. E tra l'altro c'è sul secolo XIX la ricostruzione del finanziere, 42 anni, caduto a terra con una straordinaria e drammatica fotosequenza, pagina 6-7, l'inseguimento, cade a terra, perde il casco, viene subissato da calci, pugni, sprangate, e si vede che riesce con due mani prima a recuperare l'arma che è rimasta attaccata vicino a lui perché è attaccata con una cordicella al giubbotto, e poi la recupera, mette due mani sull'arma, non la punta mai verso nessuno, riesce insomma a mettersi in salvo. Tanto che Libero, per il secondo giorno, con un articolo di Mattias Maniero pestato da Inoglobal, diamo un premio al finanziere eroe che non ha sparato. L'avete visto, appuntato scelto, 42 anni, capelli avviati a diventare bianchi, a quell'età in tanti hanno già tirato i remi in barca, in tanti pensano che non valga la pena prendere botte per difendere tutti noi. Appuntato scelto, meno di 1.500 euro al mese, una famiglia da mantenere, i conti da pagare, farsi massacrare per meno di 1.500 euro al mese, e che siamo impazziti, si è fatto massacrare. E voi, poi dice Maniero con anche una certa retorica, alzatevi in piedi e rendetegli onore. Questa è l'Italia di cui bisogna andare fieri, il paese che sa cadere in ginocchio senza piegarsi. Chi sono le persone arrestate? È interessante perché spesso si dice black bloc, sotto questa formula c'è tutto e poi c'è un po' niente. Mentre Carlo Bonini, ma anche Guido Ruotolo sulla Stampa, fanno la fotografia dei 23 arrestati che oggi saranno processati per direttissima. Il falegname, la fuorisede, lo straniero, davanti al giudice le facce della guerriglia. Ammesso che un brogliaccio di questura con le sue aride annotazioni anagrafiche possa dire qualcosa, i 23 fermati per i fatti di Piazza del Popolo appaiono davvero il nuovo album di famiglia di una generazione che nessuno ha voglia di fissare negli occhi. Così scrive Carlo Bonini. Ci sono due donne, una studentessa a Roma, un'altra di 23 anni, un solo straniero, un francese di Parigi, tutti gli altri molto precari e molto incazzati. 36 anni il più vecchio, un falegname di casa in provincia di Firenze, frequenza saltuaria ai centri sociali. 19 anni il più piccolo, un ragazzo di Roma, alcuni precari, alcuni, c'è anche uno studente, un ricercatore universitario. Insomma, ci sono tante polemiche, ci sono tante discussioni sugli infiltrati, c'erano o no gli infiltrati, si è un po' svelato questo giallo di questo ragazzo col giubbotto beige che appena fermato ovviamente urlava ai poliziotti «sono minorenne, non fatemi niente» e infatti è il figlio di un ex brigatista. Vabbè, andiamo a segnalare, avete sentito, ve lo dico solo così, che Facebook ha scelto non Julian Assange ma Zuckerberg, l'uomo di Facebook, mannaggia a me che non sopporto Facebook, anche uomo dell'anno me lo devo ritrovare, questo ragazzotto che ha inventato Facebook, complimenti comunque, ha fatto anche svariati miliardi di euro. E poi che dire, voglio andare alle segnalazioni conclusive, la prima è questa. A scuola, senza albero e presepe, ecco il nuovo Natale multietnico. Ieri si è aperta come una diga questa decisione di una scuola di Milano, di Varese, in provincia di Varese, di non fare la benedizione in classe. Eccolo qua, Vera Schiavazzi su Repubblica riepiloga tutte le scuole dove non si può festeggiare il Natale, perché ci sono gente di bambini di varie etnie. Non si può fare le canzoni natalizie, non si chiama il Natale la festa dell'inverno, in molti istituti con alunni stranieri. Io veramente, insopportabili queste cose. Non si sa che fastidio sia cantare un canto di Natale o chiamare la festa di Natale, come si è sempre fatto. Vabbè, è così. E l'ultima segnalazione, se ce la faccio, guardo Peter, mi dice di sì, 50 anni fa, pagina 25 della Stampa, nasceva il telecomando. Anzi, 60 anni fa, 1950, 60 anni fa, lo scatolino magico per liberare gli spettatori dagli spot. Ma ora, ovviamente, ce ne vuole uno per ogni gesto nella casa, siamo subissati di telecomandi, ma Bruno Ruffilli racconta come 60 anni fa nacque questa scatola magica, il telecomando. Ebbene sì, un'invenzione davvero rivoluzionaria. Ci fermiamo, il nostro sondaggio oggi è test antidroga obbligatori anche per i medici e gli infermieri, lo vuole il governo, che ne pensate? Sarebbe giusto secondo voi? Votate su radio24.it IGR.